America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Tuo palo americano, americano, americano, scenda a me chi to fa fa. Beh, rieccoci dopo la pausa estiva. E sì, io in qualche modo devo fare l'americano, devo raccontarvi questa America che in un mese ne ha combinate di tutti i colori, anche per il fatto che abbiamo pur sempre il presidente Trump alla Casa Bianca, che è, come dire, vulcanico, riesce a produrre fuochi d'artificio in continuazione. Ci sono state alcune situazioni, come dire, di un certo interesse, e delle situazioni che hanno fatto emergere, come dire, il lato più realistico, più saggio di questo presidente, che si rende conto che alla fine diventa autolesionismo comportarsi come si comporta troppo spesso, e dunque ha preso delle decisioni che in qualche modo vanno contro il suo istinto. Ha nominato John Kelly come capo di gabinetto alla Casa Bianca, un generale dei Marines che è arrivato per riportare l'ordine. E sappiamo che cosa è successo con l'arrivo di John Kelly. Due persone sono saltate immediatamente, due personaggi che dovevano essere molto influenti alla Casa Bianca. Uno è Steve Bannon. Vi ho raccontato più volte di Steve Bannon, l'anima nera di Donald Trump, il suo consigliere politico, colui che lo tiene in contatto diretto, un filo diretto con la base del partito, con la pancia del paese, con gli elettori che sono scontenti, arrabbiati contro Washington, contro tutto, populisti, nazionalisti, e diciamo con quella parte del paese in cui sono in pochi a livello internazionale a riconoscere in questo movimento il vero volto dell'America. Bannon dunque fuori, ma è anche stato messo fuori Scaramucci, The Mooch, un italo-americano molto colorful, molto colorito, che doveva riequilibrare la comunicazione all'interno della Casa Bianca e che invece ha perso più volte le staffe, ha dimostrato di non avere la tenuta, ha insultato due dei suoi colleghi. Però che è successo? Che a neanche 10 giorni dalla sua nomina è stato fatto fuori. Dunque la prima grande novità è una rivoluzione in corso alla Casa Bianca. Perché questo è importante? Perché è da questa rivoluzione che poi deriveranno le scelte politiche, soprattutto sul piano internazionale. Well, this test is sending a very strong message to the United States and the Trump administration, Dana. It's a message of defiance. It's a message that North Korea will not back down. And that... Ecco, la sfida della Corea del Nord in questo momento è la sfida più difficile con cui si confronta l'America, si confronta la Casa Bianca di Donald Trump e, molto francamente, con cui ci confrontiamo tutti noi, perché qui abbiamo un paese che ignora qualunque appello delle Nazioni Unite, qualunque ordine delle Nazioni Unite, approvato tra l'altro all'unanimità anche con l'appoggio della Cina, e va avanti con i suoi esperimenti nucleari. Ma archiviamo un pochino gli affari politici, perché abbiamo il Russiagate che continua, abbiamo avuto purtroppo l'uragano Harvey, e proprio in questi giorni i texani, gli abitanti di Houston, stanno tornando a casa, trovano una situazione disastrata, circa 150 miliardi di dollari di danni complessivi, ha detto il governatore dello Stato. Questa cifra sarebbe il danno maggiore che ha mai subito l'America per un uragano. Insomma, ci sono una gran quantità di tematiche. Però oggi, in particolare l'America, l'America oggi si concede la festa del lavoro. La festa del lavoro chiude il periodo estivo, è sempre il primo lunedì di settembre. Abbiamo una situazione in cui il mercato del lavoro in questo momento sta mostrando qualche piccola flessione. Perché? Perché abbiamo avuto un aumento dello 0,1% del tasso di disoccupazione, che resta comunque molto molto basso, appena al di sopra del 4%, ma abbiamo avuto anche un calo delle attese sui nuovi salariati dipendenti. Invece di 179.000 ce ne sono stati circa 153.000, questo è successo venerdì scorso. La borsa comunque tiene, la Yellen promette di essere assolutamente allerta, ma di tutto questo, vi dicevo, parleremo nei prossimi giorni, perché voglio fare degli approfondimenti su quello che è capitato, perché sono cose assolutamente non banali, complesse, che richiedono sicuramente ulteriori discussioni. Dunque, ai prossimi giorni. Nel frattempo, ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. La voglio dedicare alla ripresa della trasmissione. Come vi dicevo, ci attendono mesi molto interessanti, probabilmente difficili, e dunque bentornati con John Sebastian, che ci canta appunto Welcome Back. Well, welcome back. Your dreams were your ticket out. Welcome back to that same old place that you laughed about. Well, the names have all changed since you hung around, but those dreams have remained and they've turned around. Who'd have thought they'd lead ya? Who'd have thought they'd lead ya? Back here where we need ya. Back here where we need ya. Yeah, we tease him a lot, 'cause we got him on the spot. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Spot a friend. Welcome back. And I smile when I think how you must have been. And I know what a scene you were learning in. Was there something that made you come back again? And what could ever lead you? What could ever lead you? Back here where we need you. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.